Siamo in collegamento telefonico con l'autore, attore Andrea Cosentino per parlare del suo spettacolo Primi passi sulla Luna, che sarà oggi sabato 17 marzo all'ex Lavanderia a Roma. Andrea, ben ritrovato. Ben ritrovato a te, buongiorno a tutti. Ci parli un po' di questo lavoro che abbiamo avuto anche la fortuna di ospitare al Radioteatro? Sì, beh, è uno spettacolo ormai antico, diciamo, nel senso che è del 2010 questo spettacolo, ed è, bah, io direi ormai un mio classico, Primi passi sulla Luna, è uno spettacolo che ha un sottotitolo stravagante, che accenna a spettacoli postumi, quindi è uno spettacolo che parla da un lato diciamo, il tema basico, e da un lato faccio digressioni con i miei personaggini più o meno mentecatti su varie ipotesi su co cosa sia avvenuto davvero la notte dell'allunaggio, perché parliamo poi di quello, insomma, come si chiama, dei retroscena della fatidica notte dell'allunaggio, quindi con ipotesi sempre più fantasiose, e dall'altro parla di una vicenda in qualche modo personale, intima, che riguarda mia figlia. Quindi questi primi passi sulla Luna sono da un lato appunto alla parodia del pensiero complottista su cosa sia avvenuto davvero la notte del 2021 del 69, e dall'altro sono i primi passi verso, diciamo, come dire, la coscienza di una vita che nasce, che mia figlia, e anche dei rischi di una vita che finisce. Insomma, quindi, insomma, vuole essere uno spettacolo contemporaneamente, credo, molto comico, ma anche molto, molto, direi, poetico. Riguarda cose importanti. Direi che forse sto parlando troppo, dimmelo. No, no, vai tranquillo. Direi che forse è lo spettacolo che tra i tanti che ormai ho fatto di più riesce a dire esattamente ciò che sto cercando di dire. Appunto, non so, avevo una cosa da dire, un'urgenza, come si usa a dire per noi teatranti, che ci piace pensarci fare cose importanti, poi in realtà non è veramente così. Ma in questo caso avevo qualche cosa che è come un'urgenza, e ho trovato il modo, credo, abbastanza appropriato per parlarne. Ecco, com'era nata quest'urgenza? Ma guarda, senza svelare, perché poi, vabbè, penso che più o meno a Roma l'abbiano già visto tutti, questo spettacolo, ma forse no, speriamo di no. Infatti spero, tra l'altro, che l'ex Lavanderia sia piena, anche perché al di là di tutto si tratta di un lavoro che rimetto in scena oggi per una causa, direi, nobile, nel senso che c'è questo teatro dell'ex Lavanderia Santa Maria della Pietà, che è stato, insomma, che ormai occupato da 13 anni, che vorrebbe crescere, vorrebbe dotarsi di una serie di strutture. Contemporaneamente, credo, un paio di settimane fa gli è arrivato un avviso di sgombero. Insomma, si tratta di una lotta importante, io credo. Infatti ho dimenticato la domanda precedente. Come è nato? È nato, senza dire esattamente ciò di cui parla, ma insomma, è nato appunto nel 2009. Da un lato c'ero io che mi dicevo, va bene, cerchiamo di fare uno spettacolo, cerchiamo di farti finanziare per questo spettacolo. Non so perché nel 2009 il Comune di Roma finanziava, o comunque si dava dei finanziamenti a degli spettacoli che parlassero dell'anniversario del momento, e non so perché nel 2009 il Comune di Roma aveva deciso di celebrare con particolare enfasi il quarantennio dell'uomo sulla Luna. E quindi io, insomma, boh, mi dissi, ma perché non fare uno spettacolo sull'allunaggio, del quale non sapevo quasi nulla? E dall'altro lato invece mi è successa una cosa, che è la cosa di cui parlo, appunto, di questo spettacolo, che ho pensato, per una serie di sintomi, che mia figlia potesse avere una malattia. Mia figlia aveva 3 anni all'epoca, potesse avere una malattia molto seria. Quindi, insomma, in qualche modo mi sono trovato a confrontarmi con la paura della scomparsa di mia figlia, di una bambina. E quindi, insomma, come spesso faccio negli spettacoli, ho messo insieme due cose che apparentemente non c'entrava nulla, e ne è uscito fuori un discorso, credo, sensato, a livello poetico, sensato, ovviamente. Facciamo teatro, non facciamo saggi, quindi, insomma, la coerenza che si chiede a uno spettacolo credo che sia una coerenza di ordine estetico e poetico. In questo caso io sono abbastanza orgoglioso di questo lavoro. Sì, anche perché ecco, questa vicenda personale lo rende anche abbastanza diverso dal tono dei tuoi altri spettacoli. Lo rende per come l'ho inteso io, un unicum. Sì, in questo senso. Infatti io, è uno spettacolo che sono molto affezionato. Non mi capita spesso di avere cose da dire, o almeno mi capita di avere, spero, in tutti i miei lavori dico qualcosa, ma in questo caso avevo un obiettivo preciso. In realtà parlare, il tentativo era di parlare dello sguardo, dell'apertura anche mentale, poetica, che ti dà la percezione del dolore, o una percezione della finitezza della nostra esistenza. Insomma, volevo in qualche modo cercare di mettere in scena un paradosso, ovvero la poesia, anche la gioia che nasce dalla percezione del dolore. Ecco, questo è credo il fuoco del lavoro, e questo credo, spero che è quello che venga colto. Sì, gli altri miei lavori in genere invece sono più mediamente past destruence, no? Faccio più, non dico parodie, ma faccio più critiche sociali rispetto a modi di guardare il mondo e lo spettacolo. In questo caso c'era anche una past construence, mettiamola così. Oh, a diversi anni, però, come dimostra questa serata, continua ad avere una sua vita. Sì, per vari motivi. Uno, perché credo che sia uno spettacolo bello, anche se non toccherebbe mai a me dirlo, ma insomma. Diciamo che da un certo punto di vista io considero Prima sulla Luna l'apice e il termine della mia ricerca teatrale dei 10 anni precedenti, quella che era iniziata con L'Asino Albino, poi Angelica, che in qualche modo era una ricerca sull'antinarrazione, mettiamola così, sull'idea di non raccontare storie, perché non avevo storie da raccontare, appunto non sono un narratore in senso classico, ma raccontare spettacoli, ovvero sia mostrare il processo di costruzione di uno spettacolo, che detta così sembra una cosa molto intellettualistica e molto, come dire, cerebrale, ma in realtà per me è molto sensata. Cioè, io parto un po' dall'idea che viviamo tutti e sempre di più nella società dello spettacolo, e quindi la realtà della quale parliamo in realtà è una realtà già mediata dalle tecniche di rappresentazione più o meno di massa, e quindi la cosa più intelligente che si possa fare da teatranti, cioè da praticanti un'arte assolutamente minore e marginale, è quella di usare appunto quest'arte viva, fatta dal vivo per persone vive, per smontare in qualche modo, per renderci coscienti dei meccanismi della rappresentazione, diciamo, mainstream, con i quali appunto questa stessa realtà ci viene data. In chiusura un paio di domande, Andrea. Come prosegue la tua stagione teatrale, e poi se stai lavorando a qualche progetto? Ma allora, la mia stagione teatrale prosegue, che sto portando ultimamente molto in giro, diciamo, l'ultimo lavoro che ormai ha un anno, 2 anni, è quello che faccio con Roberto Castello di Aldes. Ormai sono entrato in Aldes, in questa compagnia che stiamo unendo il teatro, la danza, qualunque cosa. Che è appunto Trattato di Economia, col quale tra l'altro staremo a Roma, torneremo a Roma al Corticciolo, ma ad aprile, insomma 12-13 aprile, visto che in radio si usa dire gli appuntamenti. E in realtà la mia stagione prosegue, che mi diverto in questi ultimi tempi a fare incontri. Appunto c'è stato un incontro con Roberto Castello, sto continuando a lavorare a un progetto a cui tengo moltissimo, che è questo Cotechino Riff, che è uno spettacolo clownerino nichilista che faccio con un musicista. Che me lo tengo, diciamo, come si usa dire tra noi, a livello di studio, nel senso che è uno dei miei spettacoli esperimento più che uno degli spettacoli opera. In linea di massima mi piace sempre di più, mi interessa sempre più tornare alle radici del mio gusto per il teatro. Le radici del mio gusto per il teatro sono il clown, sono l'improvvisazione, sono l'idea di creare eventi, diciamo così, irripetibili, che funzionano o non funzionano grazie o per colpa dell'energia che io ho quella sera e degli spettatori che sono lì. Insomma, come dire, mi piace l'idea che il teatro diventi sempre di più una cosa che, se tu che vieni ad assistervi non gli dai nulla, non ti restituisce nulla, e se tu che vieni ad assistervi gli dai molto, ti restituisce quel molto anche potenziato. Quindi mi piace adesso lavorare sempre di più su questo vuoto, sullo scambio più che sul contenuto. Andrea, ci lasci tutti i tuoi riferimenti web per saperne di più? Ah, i miei riferimenti web ormai sono al di là della mia... Ho una pagina Facebook, che è appunto Andrea Cosentino, e poi ormai il mio sito web è quello di Aldes, quindi dovessi dire a memoria com'è, non lo so, però se si cerca su Google Aldes, che Perfetto. È questa compagnia di danza teatro, ci sono anch'io dentro. Bene. Allora, ricordiamo l'appuntamento con Primi Passi sulla Luna, spettacolo con Andrea Cosentino, oggi sabato 17 marzo 2018 all'ex Lavanderia a Roma. Andrea, un abbraccio. Ciao Federico. Perché ci sono, visto che siamo sugli appuntamenti. Come no? Visto che è un marzo molto romano. Certo. Il 22 sono in questo locale che si chiama Bifolk. Sì. A Centocelle, proprio a fare esperimenti sul mio Cotechino Riff, a fare una serata sgangheratina, ma insomma che secondo me potrebbe diventare una cosa molto divertente. E il 23, sempre a Roma, sono al Furio Camillo, a fare Notti Arnold Now, il mio spettacolo su Marina Abramovic, contro Marina Abramovic, di più ne ha ne metto, quindi insomma. Chi è a Roma e vuol vedere Cosentino a marzo, ci sono delle occasioni. Bene, anche altre due date. Andrea, un abbraccio, a presto. Un abbraccio a voi, buona giornata. Ciao.